Anche oggi la parola di Dio ci fa un grande regalo. Continuiamo la lettura di Coelet, capitolo terzo, che inizia con una frase che è entrata anche nella comprensione quotidiana. Tutto ha il suo momento, ogni evento ha il suo tempo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare e un tempo per sradicare quello che hai piantato. C'è un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per abbracciare e per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. La sapienza consiste nel saper distinguere quando è il suo momento. Perché se uno parla quando doveva tacere, fa disastri. Se uno si mette a ridere quando è il momento invece della tristezza o del lutto, offende le persone. Occorre dunque, dice Coelet, avere questa sapienza di saper distinguere e conseguentemente di saperci comportare. Ma chi ci potrà dare questo insegnamento? Certamente lo Spirito Santo, che nei suoi 7 doni ha la sapienza, l'intelletto, il consiglio, la scienza, più gli altri 3. Dobbiamo chiedere allo Spirito Santo la sapienza è il sapore giusto delle cose, o se vogliamo dirla in un altro modo, uso un linguaggio comprensibile, avere l'occhio di Dio, che sa distinguere se una cosa è da fare o non da fare. Quella è la sapienza. Dobbiamo chiedere allo Spirito Santo anche l'intelletto. L'intelletto è una parola latina, intus legere, leggere dentro nelle cose. L'intelletto ti permette, di fronte a un'azione, di fronte a una cosa, di guardarci dentro con acutezza e di vedere qual è il senso, qual è il contenuto di quell'azione, per esempio, che tu vorresti fare. E infine il consiglio. Il consiglio non vuol dire saper scegliere tra le cose giuste e le cose sbagliate, mancherebbe altro. Il consiglio vuol dire scegliere solo nelle cose giuste quella che va bene per te e quella che, pur essendo giusta, non va bene per te. È importante questa distinzione. Il consiglio è un grande dono dello Spirito Santo per discernere, per distinguere. Allora dobbiamo diventare persone che pregano lo Spirito Santo. Spirito Santo, insegnami quando è il momento di fare una cosa o di non farla. È importante, amici. Quante persone sventate c'è in giro per il mondo, quante persone stolte. Speriamo che il Signore ci salvi da questi errori. Quante persone improvvide, quante persone sciocche. Signore, donaci di capire se è il suo momento o se invece devo rimandare, devo aspettare. Oltre allo Spirito Santo, io mi permetto di darvi un altro suggerimento. Siccome questa parola la possono ascoltare dei giovani e degli anziani, non puoi dare un suggerimento generale. Allora io vi do questo consiglio. Cercate un bravo consigliere. per tutte le cose importanti ci vuole un consigliere. Politicamente tutti i capi hanno i loro consiglieri. Ci sono i consiglieri finanziari, i consiglieri economici, i consiglieri militari, ci sono i consiglieri sportivi che sono gli allenatori. E per la tua vita spirituale ce l'hai un consigliere?